Ad alta voce, Elia Shilton legge Le linee d'ombra, dal libro The Shadow Lines di Amitav Ghosh, copyright 1988, tutti i diritti riservati. Traduzione di Anna Natotti. 23esima puntata. Si racconta che la sacra reliquia, conosciuta con il nome di Mu'i-Mubarak e considerata un capello del profeta Maometto, sia stata acquistata da un mercante del Kashmir di nome Khwaja Nur-ud-Din a Bihapur, vicino a Hyderabad, nell'anno 1699. L'anno seguente la sacra reliquia venne portata nella valle del Kashmir. Questa è solo una delle versioni sulla provenienza della reliquia, ce ne sono parecchie altre. Tutte concordano comunque sul fatto che l'arrivo della reliquia venne salutato con manifestazioni di giubilo in tutta la valle. Si racconta che migliaia di persone siano giunte da ogni parte del Kashmir, persino da luoghi inaccessibili e lontani come il passo di Banihal, per vedere con i propri occhi la sacra reliquia, in seguito sistemata nella pittoresca moschea di Hazrat Bal vicino a Srinagar. La moschea divenne un'importante meta di pellegrinaggi e ogni anno grandi moltitudini, kashmiri di ogni fede, musulmani, indù, sikh e buddisti, si ammassavano a Hazrat Bal nelle occasioni in cui la reliquia veniva esposta al pubblico. Tutto ciò è ampiamente documentato anche dagli osservatori europei, la cui convinzione tutta cristiana della necessità di una distinzione fra le dottrine era offesa dalla vista di quei pellegrinaggi ecumenici. Fu così che attraverso i secoli la teca divenne un simbolo della cultura del Kashmir, unica ed esclusiva. Il 27 dicembre 1963, 263 anni dopo essere stata portata in Kashmir, la reliquia sparì dalla sua teca nella moschea di Hazrat Bal. Non appena la notizia si diffuse, la vita si fermò in tutta la valle del Kashmir. Malgrado il freddo intenso, le notizie sul tempo dei giornali di Delhi rilevano che quel giorno a Srinagar l'acqua delle sorgenti era gelata, migliaia di persone, tra cui centinaia di donne piangenti, sfilò da Srinagar alla moschea di Hazrat Bal con le bandiere listate a lutto. Scuole, collegi e negozi chiusero i battenti in tutta la valle e dalle strade sparirono autobus e automobili. Il giorno successivo, domenica 29 dicembre, a Srinagar ci furono enormi manifestazioni a cui parteciparono insieme musulmani, sikh e indù. Ci furono anche molte riunioni pubbliche che videro la partecipazione e i discorsi di membri di tutte le principali comunità religiose. Ci furono isolati episodi di violenza per cui le autorità dichiararono tempestivamente il coprifuoco. Ma il bersaglio dei rivoltosi, restiamo increduli leggendolo oggi, non era la gente, non gli indù, né i musulmani, né i sikh, bensì la proprietà, identificata con il governo e la polizia. Il governo attribuì gli attacchi a elementi antinazionali. Nei giorni seguenti la vita della valle sembrò ripiegarsi su se stessa in una manifestazione spontanea di dolore collettivo. Ci furono innumerevoli cortei funebri, i negozi e gli edifici esposero le bandiere nere e nelle strade tutti avevano una fascia nera al braccio. Ma in tutta la valle non si registrò un solo incidente fra musulmani, indù e sikh del Kashmir. Si coglie una nota di stupore, come tenue la nostra fiducia nella forza della civiltà sincretica, nei commenti dei giornali che ci spiegano come il furto della reliquia abbia rafforzato l'unità della popolazione del Kashmir come non era mai accaduto prima. se ne attribuisce in parte il merito al ruolo di guida di Maulana Masoodi, un autentico eroe, dimenticato e non celebrato, come sempre succede, a quanti sono dotati di equilibrio nell'isteria del nostro subcontinente. Fu lui, ci dicono i giornali, che convinse i primi manifestanti a marciare con la bandiera nera invece di quella verde, riuscendo così a tenere unite le diverse comunità del Kashmir in una manifestazione di lutto collettivo. Delhi era costernata. Il primo ministro Nehru fece appello alla pazienza e diede disposizioni ai più alti funzionari del Central Bureau of Intelligence e del Ministero degli Esteri affinché ritrovassero la reliquia sparita. Il capo del governo del Kashmir dichiarò che il furto era il gesto folle di qualche miscredente. Vi furono raduni e cortei nei villaggi e nelle città di entrambe le parti del territorio del Pakistan. Le autorità religiose, di solito così pronte a condannare l'idolatria, dichiararono che il furto era un attacco all'identità dei musulmani. Il 31 dicembre, Karachi osservò un giorno di lutto nazionale e ben presto altre città seguirono il suo esempio. I giornali pakistani scrissero che il furto faceva parte di una più vasta cospirazione mirante a distruggere le speranze spirituali e nazionali della popolazione del Kashmir e adombrarono l'ipotesi del genocidio. Il 4 gennaio 1964 il Mi'i Mubarak venne ritrovato dai funzionari del Central Bureau of Intelligence. Non ci furono spiegazioni. Per la verità, tutt'oggi nessuno sa esattamente che cosa accadde alla reliquia di Hazrat Bal. La città di Srinagar esplose per la gioia. La gente ballava per la strada. Ci furono innumerevoli raduni di ringraziamento. Musulmani, indù e sikh sfilarono uniti in corteo chiedendo che i nomi dei cospiratori fossero resi noti. Per la prima volta, e quasi certamente ultima volta, lo slogan Central Intelligence Zindabad, lunga vita al Central Intelligence, echeggiò per le strade di una città indiana. In mezzo a quei grandiosi festeggiamenti ci fu un solo piccolo segno premonitore. A Khulna, una cittadina del lontano territorio del Pakistan orientale, un corteo di protesta contro il furto della reliquia degenerò in atti violenti. Alcuni negozi vennero dati alle fiamme e alcune persone furono uccise. Mentre leggevo quel breve articolo per la quinta volta, un fatto mi colpì all'improvviso come uno schiaffo in faccia. Il fatto che May, Tridib e la nonna erano partiti per Dhaka il giorno prima. Allora vidi di nuovo Tridib che si girava verso di me, rivolgendomi per l'ultima volta il nostro segreto saluto Inca prima di entrare nella sala partenze del Dumdum Airport. Non sono riuscito a entrare in quella biblioteca per molti giorni dopo di allora. Me ne stavo disteso sul mio letto nella stanza del pensionato universitario, fissando le chiazze di muschio verde che si erano disegnate nel soffitto durante la stagione dei monsoni, e mi chiedevo come e perché mio padre li avesse lasciati partire. Mi sembrava così assurdo e insensato e così anomalo. Mio padre, infatti, era in primo luogo un uomo realista, pratico e soprattutto prudente. Doveva sapere che stava per succedere qualcosa. Ricordavo perfettamente come aveva tagliato corto quando si era accorto che lo avevo sentito parlare di disordini. Non riuscivo a trovare una spiegazione plausibile e a poco, fissando quelle chiazze che si dilatavano nel soffitto sopra di me, cominciai a pensare che li avesse mandati laggiù di proposito, che avesse congiurato nella morte di Tridib. Ma quando riuscii ad andare di nuovo in biblioteca e presi da uno scaffale un volume del quotidiano a cui eravamo abbonati a quell'epoca e lo aprì alla data, ora impressa a caratteri di fuoco nella mia memoria, del 4 gennaio 1964, feci un'altra scoperta. Scoprì che non si faceva il minimo accenno ai disordini nel Pakistan orientale e non si parlava affatto degli eventi del Kashmir. Dopotutto era un giornale di Calcutta, fatto da gente che credeva nel potere della distanza non meno di quanto ci credessi io. Niente è altrettanto evocativo quanto un vecchio giornale. C'è qualcosa nella sua pressante contemporaneità, le informazioni sul tempo, l'elenco degli appuntamenti cittadini di quel giorno, gli annunci di film semidimenticati che ancora strillonano in neretto come se tutto stesse succedendo adesso, oggi, e la conseguente sensazione di aver già tenuto tra le mani, se non quello stesso giornale, almeno la sua copia esatta, il suo gemello, che può trasportare lontano nel tempo come niente altro può fare. Così, leggendo il giornale che mio padre aveva letto quella mattina, seppi che non poteva essere biasimato per aver ignorato i brividi del silenzio intorno a lui. In quel giornale non c'era accenno o presagio dell'imminente carneficina, traboccava di copiosa normalità. E quando guardai le edizioni dei giorni precedenti dell'1, 2 e 3 gennaio, vidi che era lo stesso. Come potevo biasimare mio padre? Non era che un'altra vittima di quel silenzio senza smagliature. Eppure sapeva. E anche loro devono aver saputo, tutti quegli astuti giornalisti. Ognuno deve averlo saputo in qualche remota parte di sé, perché gli eventi di quella portata non avvengono senza segni premonitori. Se sapevano, perché non ne hanno parlato? Parlavano di tante altre cose, della conferenza del congresso, dell'imminente scissione del Partito Comunista, di guerre e rivoluzioni. Che cos'è che rende quell'insieme di cose chiamato politica tanto eloquente e quegli altri innominabili eventi così silenziosi? Dopotutto quei giornalisti e storici erano uomini intelligenti e nel complesso di buone intenzioni, come chiunque altro. Quando i tumulti ebbero inizio, spesero migliaia di parole in accurate descrizioni, ma quando cessarono e non ci fu più nulla da descrivere, non ne parlarono più, mentre quegli altri fatti, scissioni di partiti e conferenze di partiti ed elezioni, continuarono a riempire i giornali e la storia per anni e anni dopo essersi conclusi, come se le parole non fossero in grado di esaurirne definitivamente il significato. Questi altri eventi, invece, possiamo descriverli soltanto mentre accadono e poi tacere, perché cercare parole di altra natura implicherebbe attribuire loro un senso ed è un rischio che non possiamo correre più di quanto possiamo permetterci di prestare ascolto alla pazzia. Ecco perché posso descrivere la morte di Tridib soltanto con notizie di seconda mano. Non ho parole per attribuirle un senso. Non ho parole e non ho la forza di ascoltare. Quando a Khulna ebbero inizio i tumulti, il governo del Pakistan orientale non perse tempo e mandò l'esercito a sedare i tafferugli. Ma era già troppo tardi. Uno dei titoli del 7 gennaio dice 14 morti nelle agitazioni alle porte di Khulna. Nei giorni immediatamente successivi, i tumulti si estesero da Khulna alle città e ai villaggi dei dintorni e in direzione di Dhaka. Profughi indù si riversarono in treno e a piedi oltre il confine con l'India. Il governo pakistano garantì a questi treni una scorta armata e sembra che abbia fatto quanto era in suo potere per proteggerli. In alcuni punti, lungo il confine, i treni furono fermati dai rivoltosi, alcuni dei quali scandivano lo slogan «Kashmir Day Zindabad». Forse in quello stesso momento le moltitudini del Kashmir stavano gridando «Central Intelligence Zindabad», ma sembra che non ci siano stati seri attacchi ai treni. Città e paesi del Pakistan orientale erano ormai travolti dalle agitazioni, ovvero saccheggi, omicidi e incendi. A Calcutta circolavano voci, soprattutto quella vecchia voce familiare, ogni volta foriera di gravi tumulti, secondo cui i treni arrivavano dal Pakistan zeppi di cadaveri. Alcuni quotidiani di Calcutta pubblicarono fotografie di profughi indù in lacrime, disperati, accanto a foschi resoconti di quanto stava accadendo a est. L'8 e il 9 gennaio, mentre i profughi continuavano ad arrivare, le voci sommersero la città come una marea e folle inferocite si accalcarono alla stazione. Così gli eventi seguirono la loro logica grottesca e il 10 gennaio, giorno in cui a Madras iniziava il torneo di cricket, Calcutta esplose. Gruppi di rivoltosi si aggiravano per la città, uccidendo i musulmani, incendiando e saccheggiando i loro negozi e le loro case. Da più parti la polizia aprì il fuoco contro i rivoltosi e in varie zone della città venne imposto il coprifuoco dal tramonto all'alba. Ma la gravità degli eventi aveva già messo fuori gioco la polizia. L'11 gennaio l'esercito venne fatto uscire da Fort William e numerosi battaglioni vennero schierati in tutta la città. I giornali dei giorni seguenti, sotto titoli a tutta pagina, pubblicano fotografie di soldati Sikh che pattugliano strade deserte. Ma al Moulin Rouge di Park Street gli affari seguivano il loro corso normale, con un tè danzante dalle 17 alle 19 e una cena danzante con Delilah accompagnata dal popolare quintetto Moulin Rouge. Il giorno dopo, mentre rombanti automezzi dell'esercito pattugliavano le strade, il Moulin Rouge annunciava una gara di twist e una jam session di Bongo Rhythms. Forse non arrivarono al giornale in tempo per annullare gli annunci a causa del coprifuoco. Sporadici incidenti con incendi dolosi e saccheggi continuarono per alcuni giorni sia a Calcutta sia a Dhaka, malgrado la presenza dei due eserciti. Ci volle all'incirca una settimana prima che il giornale potesse dichiarare che la normalità era stata ripristinata. Non si hanno stime attendibili di quante persone furono uccise nei tumulti del 1964. Il numero potrebbe variare da parecchie centinaia a parecchie migliaia, in ogni caso non molte meno delle vittime della guerra del 1962. Dai giornali appare chiaro che una volta scoppiati i tumulti, l'opinione equilibrata in India come in Pakistan reagì con identico senso di orrore e di offesa. Tanto l'Università di Calcutta quanto quella di Dhaka organizzarono iniziative di soccorso e marce per la pace. Al di qua e al di là del confine, i quotidiani pubblicarono alcuni pregevoli articoli umanitari. Come sempre, ci furono innumerevoli casi di musulmani che in Pakistan offrivano asilo agli indù a costo della loro stessa vita e in India di indù che offrivano asilo ai musulmani. Ma erano gente qualunque, subito dimenticata, per loro niente monumenti né lumi perenni. Quanto ai due governi, si scambiarono una serie di accuse curiosamente simmetriche. Il 7 gennaio un portavoce del ministro degli affari esteri di New Delhi dichiarò che la situazione di anarchia nel Pakistan orientale era la conseguenza inevitabile degli incitamenti e delle dichiarazioni provocatorie dei dirigenti e della stampa pakistani. Pochi giorni dopo, l'alto commissario dell'India in Pakistan venne convocato dal ministro degli affari esteri e informato del punto di vista del governo pakistano, il quale riteneva che i circoscritti incidenti avvenuti nel Pakistan orientale fossero stati ingigantiti dalla stampa indiana per distogliere l'attenzione della gente dai gravi fatti del Kashmir. Fatto ancora più curioso, nel giro di pochi giorni si fece strada nei rapporti fra i due ministri una nota di reciproca soddisfazione nell'esame dei rispettivi successi nel soffocare i disordini. Per un momento i presidenti dei due paesi considerarono seriamente la possibilità di un appello congiunto alla convivenza pacifica. Ma ben presto quel progetto fece la fine di tutte le buone intenzioni nel subcontinente e il ricordo dei tumulti si smarrì nella consueta nuvolaglia della retorica. Di fatto, leggendo i giornali, appare evidente che non appena scoppiarono i tumulti, i due governi fecero tutto ciò che era in loro potere per fermarli il più in fretta possibile. Da questo punto di vista erano soggetti a una logica che andava oltre loro stessi, perché la follia di una sommossa è un rovesciamento patologico, ma perciò anche un monito di quell'equilibrio indivisibile che unisce i popoli indipendentemente dai loro governi, e quel legame primario, autonomo e nemico naturale del governo. Infatti, appartiene alla logica degli stati arrogarsi, per poter esistere, il monopolio delle relazioni fra i popoli. Il teatro della guerra dove si incontrano i generali e il palcoscenico sul quale gli stati si mettono in mostra non hanno interesse a conservare la memoria delle sommosse. Prima della fine del gennaio 1964, i tumulti erano progressivamente scomparsi dalle pagine dei giornali, spariti dall'immaginario collettivo dell'opinione equilibrata, svaniti senza lasciare traccia nei libri di storia e negli scaffali. Erano usciti dalla scena della memoria per sprofondare nel vulcano del silenzio.